Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Il 2009 si è chiuso con quasi 448.000 ristrutturazioni edilizie avviate con il beneficio del 36% di risparmio fiscale, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente, rispetto al 2008. Questo bonus, quello del 36%, si conferma quindi solido come un mattone, così lo ha definito Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle Entrate. È un'agevolazione nata nel 98 per favorire il recupero del patrimonio edilizio e ha visto crescere il suo apprezzamento in maniera costante. Pensate che all'inizio, proprio nel 98, ad approfittare del bonus sono stati circa 240.000 contribuenti. Nel 2009, come vi dicevamo, sono stati praticamente 448.000 e quindi in 12 anni la richiesta dello sconto è aumentata di oltre l'85%. Tra l'altro, quest'anno si è aperto con la buona notizia della proroga dell'incentivo fino al 2012, mentre dovrebbe scadere quest'anno, al netto di sorprese che potrebbero arrivare fra qualche mese, dovrebbe scadere quest'anno l'incentivo del 55% appunto di sconto sui lavori di riqualificazione energetica del patrimonio residenziale. Noi per oggi torniamo a 360 gradi sul tema dello sconto fiscale del 36%, abbiamo fatto anche il multiplo. Quali sono i requisiti richiesti per ottenere questa agevolazione? Come si attiva la pratica? Quali sono i tetti di spesa consentiti e cosa succede anche nei condomini? Oggi i nostri esperti, sono due esperti che tornano, Salva Danaio, ci fa molto piacere. Buongiorno a Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia dell'ANCE, l'associazione dei costruttori, e anche esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Zandonà, bentornato. Buongiorno a tutti. E bentornato, perché non lo sentiamo invece da un po' più tempo, l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI di Milano. La NACI è l'associazione degli amministratori di condominio. Avvocato Correale, bentornato. La ringrazio, dottoressa. Grazie molte. Abbiamo qualche disturbo al collegamento telefonico, cerchiamo di ripristinarlo, tanto abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima di iniziare la nostra conversazione, perché dobbiamo raccontarvi cosa succede in borsa, dobbiamo sentire la nostra scheda e allora cominciamo dai mercati finanziari. Non prima però di avervi ricordato che potete chiamarci per le vostre domande sull'argomento di stamattina all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666. La borsa stamattina è piuttosto positiva, sta recuperando più che ampiamente i cali di ieri. Abbiamo su Parigi un rialzo dello 0,86%, Francoforte più 0,76%, Londra più 0,57%, Milano più 0,61%. Milano stamattina aveva sofferto un po' più delle altre piazze, perché ad appesantire Piazza Affari c'è il calo molto profondo di Bulgari, meno 8,37% in questo momento in borsa, dopo la pubblicazione dei dati annunciati ieri sera. Il gruppo ha dimezzato il dividendo, ha annunciato una sorta anche di profit warning, un calo degli investimenti previsti per quest'anno, e tutti gli analisti si sono affrettati a tagliare il prezzo obiettivo del titolo. Ci sono almeno 3 report piuttosto negativi sulla società. Tra gli altri cali, visto che siamo da questa parte della classifica, Snam meno 0,48%, Telecom Italia meno 0,47%, Italcementi meno 0,23%. Il gruppo stamane ha lanciato una maxi emissione obbligazionaria. Impregilo meno 0,20%, Popolare di Milano meno 0,16%. Segno più invece su Parmalat, che guadagna l'1,77%, Tenaris più 1,69%, Mondadori più 1,66%, CIR più 1,51%. Unicredit in rialzo di quasi un punto, il titolo di Piazza Cordusio sta quotando oltre i 2 euro, lo diceva Simone Spezia nel corso del giornale radio. Il gruppo approva oggi i conti del 2009, ma soprattutto ha all'esame il consiglio di amministrazione il progetto della banca unica, intorno alle quali un po' di maretta da parte degli azionisti, e ci sarebbe un po' di clima di tensione alla vigilia di questo CDA, secondo quanto riportano appunto fonti interne, che sono poi dichiarazioni riportate dalle agenzie, e vedremo cosa accadrà appunto nel corso della giornata. La riunione del comitato strategico della banca è iniziata stamattina intorno alle 10. Poi occhi puntati stasera sulla Banca Centrale Americana, sui tassi di interesse, e occhi puntati anche sulla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione Europea per definire una volta per tutte un po' le prese di posizione chiara sulla situazione greca. Euro su dollaro a 1,3711, direi di lasciare la borsa per andare al tema di oggi e alla chiusura del 2009 con un vero e proprio boom da parte dei contribuenti italiani del contributo fiscale per ristrutturare la propria casa. Sono oltre 2 milioni le richieste di detrazione IRPEF del 36% sostenute per le spese di ristrutturazione edilizia inviate dai contribuenti dal 1998 ad oggi. Un vero e proprio successo, cresciuto anno dopo anno, tanto che il governo, con l'ultima finanziaria, ha deciso di prorogare lo sconto fino al 2012. I requisiti però restano sempre gli stessi. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in 10 anni. Limite che dal 1 ottobre 2006 si riferisce alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Tuttavia i contribuenti di età superiore a 75-80 anni possono suddividere la detrazione rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali riguardano le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione IRPEF solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. La prima cosa da fare per usufruire del bonus è inviare la comunicazione di inizio lavori tramite raccomandata all'Agenzia delle Entrate. 800 24 0024 è il numero verde per da formulare se volete farci delle domande sul tema di questa mattina, oppure scriveteci al 349 238 6666. C'è un'ascoltatrice che ci ha chiamato, io non la richiameremo per sentire la sua domanda, sintetizzo io la sua richiesta a Marco Zandonà, uno dei nostri due ospiti di questa mattina, direttore dell'Ufficio Fiscalità Edilizia dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori. Luisa da Bresso voleva chiedere se, avendo acquistato un frigorifero nuovo lo poteva detrarre anche senza aver fatto la ristrutturazione della casa. Quel beneficio là è terminato l'anno scorso, lo ricordiamo, Zandonà, però era proprio vincolato, ricordiamolo, alla ristrutturazione dell'abitazione. Esatto, è un'agevolazione che non è stata prorogata al termine dell'anno con l'ultima finanziaria, che si applicava per l'acquisto appunto degli elettrodomestici oltre che dei mobili, però connessa al fatto che la casa in cui poi veniva allocato questo elettrodomestico veniva ristrutturata e la ristrutturazione fruiva del 36%, attualmente non è stata prorogata. Sembra però che nel decreto incentivi, infatti, che dovrebbe essere varato venerdì, dovrebbe essere reintrodotta. Esatto, per cui ci dispiace per Luisa che praticamente non ha azzeccato il momento giusto, non lo ha fatto l'anno scorso, lo ha fatto adesso questo acquisto, ma in ogni caso non può utilizzare l'incentivo fiscale. Allora, da che cosa cominciamo? Più tempo a disposizione, Zandonà, dicevamo, per chi ha le prese con lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della propria abitazione. Il governo ha prorogato la detrazione fino al 2016, tra l'altro non mi ricordo se l'abbiamo messo anche nella nostra scheda, è passata anche da transitoria a definitiva la aliquota IVA agevolata al 10%. Esatto, questa è una buona notizia per i proprietari di casa, nel senso che l'IVA al 10% è diventata come norma a regime nel nostro ordinamento anche per gli interventi meno importanti, cioè quelli di mera manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre ricordo che per gli altri, quelli più incisivi di ristrutturazione e di restauro, l'IVA era già al 10% a regime. Zandonà, io lo so che può sembrare una domanda molto banale, ma molto spesso magari cominciamo a fare dei lavori in casa e non abbiamo in testa una chiara definizione fra quelli che possono essere contemplati nell'ambito della manutenzione ordinaria e quelli che possono essere contemplati nell'ambito della manutenzione straordinaria. Per esempio, ridipingere tutta l'abitazione non è un lavoro che può essere soggetto a questo incentivo fiscale. Esatto, cioè la semplice di dipingere la casa, quindi senza sostituire parti strutturali, intervenire sugli impianti, è un lavoro di manutenzione ordinaria che ovviamente non è ammesso, ma si applica il 36 solo per i lavori sulle parti comuni condominiali. Poi ovviamente occorre fare riferimento al regolamento edilizio comunale, perché poi in Italia i regolamenti edilizi sono differenti. In un posto quello che è manutenzione ordinaria in un comune magari può essere straordinaria, quindi bisogna vedere caso per caso. In genere però la manutenzione ordinaria è la semplice riparazione di impianti già esistenti, oppure ad esempio appunto dipingere l'interno dell'appartamento senza intervenire strutturalmente. No, perché per esempio banalmente la ristrutturazione del bagno, no? Se non si rifanno tutti gli impianti non è un lavoro che può far ottenere l'incentivo. Esatto. Esatto, se cambio le mattonelle, la pavimentazione è manutenzione ordinaria, se però intervengo sugli impianti idraulici, elettrici, rifaccio il massetto e quindi sostituisco proprio le tubazioni, allora chiaramente diventa intervento di manutenzione straordinaria, ma sotto il profilo urbanistico qui c'è la complicanza, occorre una DIA in quanto manutenzione straordinaria. Benissimo, allora proprio a proposito peraltro di definizione dei lavori che possono essere più o meno oggetto dell'incentivo, su questo punto relativamente ai lavori da poter fare nell'ambito di un condominio è intervenuta nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate che ha risposto credo proprio ad un quesito formulato dalla NACI, dall'Associazione degli Amministratori di Condominio, sulle detrazioni per le ristrutturazioni, e l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, avvocato Correale, se non ho capito male, perché ovviamente come tutte le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, prima di capirle bene, almeno da parte di noi comuni mortali, ci mettiamo almeno 3 giorni, in sostanza l'Agenzia ha chiarito qual è l'applicabilità del 36%, perché anche per il condominio non era un panorama trasparentissimo. Per la verità c'era stata in precedenza una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che aveva complicato tutto. Ora lo stesso organo ha chiarito che nel condominio la distinzione tra parti comuni necessarie e parti comuni non necessarie appartiene a questioni quanto filosofiche, e che invece il problema della detrazione d'imposta è più semplice. Si tratta di agevolare degli interventi edilizi e soprattutto, come dice proprio questa risoluzione di qualche giorno fa, si tratta di far emergere base imponibile, cioè è vero che lo Stato ci consente di detrarre degli importi, però tutto sommato obbliga a comportamenti virtuosi tanto ai committenti quanto alle imprese. E l'Agenzia delle Entrate ha detto che proprio per queste ragioni nel campo condominiale non bisogna più distinguere se l'intervento era fatto su una parte necessaria oppure no. Infatti comunque, il termine parte proprio all'oggetto, diciamo, del chiarimento è stata la concezione della parte condominiale necessaria. Esatto, che come lei ben capisce è filosofica più più che giuridica. Un po' una questione di lana caprina, come esatto, si direbbe. E ormai non esiste più, perché sono comunque possibili le detrazioni di imposta, quale che sia la qualificazione della parte comune. Tra l'altro questo è il periodo in cui anche gli amministratori di condominio stanno distribuendo ai condomini, lo so perché capisco, anche a me, avendo fatto un lavoro importante nel mio condominio qualche anno fa, tutta la documentazione necessaria per fare la dichiarazione dei redditi relativamente ad ogni condomino per una spesa importante. Le spese come vanno detratte, avvocato Correale? Per esempio nel mio stabile è stato rifatto interamente l'impianto dell'ascensore e adesso ancora noi stiamo beneficiando degli incentivi fiscali, ma evidentemente non per tutti i condomini la detrazione è nella stessa misura. Bisogna partire da un concetto che secondo me è abbastanza chiaro, e si possono detrarre i costi che si sono sostenuti, quindi la detrazione delle imposte va in relazione alla tabella millesimale di quella particolare spesa. Per l'ascensore si applicano i millesimi di ascensore e ciascuno può utilizzare ai fini della detrazione i costi che ha sostenuto in quell'anno. È evidente che se si è proprietari di un appartamento al piano terra che non utilizza l'ascensore non si è pagato nulla, non si è diritto alle detrazioni, così come se invece si sta al settimo piano si paga di più e si detrae di più. E si detrae di più naturalmente. Salva Danaio oggi è tornato su un tema che vi piace molto alla luce di un bilancio che è stato stilato dall'Agenzia delle Entrate su quanto accaduto nel 2009. Sono quasi 450.000 contribuenti italiani che hanno chiesto il beneficio fiscale del 36% per ristrutturare la propria casa, un beneficio che è stato molto apprezzato dai contribuenti italiani che naturalmente hanno approfittato per poter rimettere a nuovo la propria abitazione. Peraltro per certi versi questo è anche un beneficio che si può accumulare in certi casi con l'incentivo del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica delle case. Noi per oggi ci focalizziamo in particolar modo su quello del 36% che è stato oggetto del monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate. Con noi stamattina Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia dell'ANCE, la Associazione dei costruttori, e l'avvocato Eugenio Correale, invece capo ufficio studi della NACI di Milano, la NACI e l'Associazione degli Amministratori di Condominio, perché oltre a capire cosa succede nell'ambito dell'ambiente domestico della nostra casa, dobbiamo anche essere informati su quanto possiamo beneficiare se invece il lavoro avviene nella parte comune del nostro condominio. Prima di sentirvi, sono pronti già 3 ascoltatori con le loro domande, volevo darvi un'informazione di servizio. Domani c'è la 4ª edizione del Forum Lavoro, convegno via satellite organizzato dal Sole 24 ore dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, formula ormai rodata. Gli esperti del Sole e della Fondazione Studi dei Consulenti analizzeranno le novità confrontandosi con i tecnici del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. I lettori del Sole 24 ore possono già formulare quesiti sugli argomenti trattati al forum attraverso il sito Forum Lavoro 2010. Alcune risposte saranno fornite durante il convegno. La conferenza via satellite, domani dalle 9 alle 13.30, potrà essere seguita da professionisti e operatori nelle sedi che gli ordini dei consulenti stanno organizzando sul territorio. Inoltre, la teleconferenza sarà trasmessa in diretta dal sito internet del Sole 24 ore. Le vostre domande sul bonus del 36%, cominciamo con Sergio da Pavia, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie a lei. Dunque, io la mia domanda è questa: io sono uno degli italiani che ha usufruito e sta usufruendo della detrazione fiscale al 50% con mia moglie. Nel frattempo mia moglie in questo momento non ha più un reddito e già fiscalmente nel 2009 è a mio carico. La mia domanda è: il suo beneficio fiscale posso trasferirlo su di me in quanto fiscalmente a carico oppure viene perso? E se sì, come che procedura bisogna seguire, se bisogna seguire una procedura particolare? Allora Sergio, aspetti lì, vado subito da Marco Zandonà, perché intanto da quello che io mi ricordo il limite il limite di spesa dei 48.000 euro da suddividere in 10 anni si riferisce non ad ogni singolo contribuente, non ad ogni persona fisica, ma ad ogni singola unità immobiliare. Quindi è pertinente la domanda di Sergio, avendo cambiato la sua situazione reddituale? No, è pertinente. All'origine era 48.000 euro con riferimento a ciascuna persona, poi è diventato con riferimento alla singola unità immobiliare. Sicuramente tra i coniugi hanno diviso in due o anche in parti differenti l'agevolazione, quindi i bonifici bancari e le spese e le fatture vanno intestate all'uno e all'altro sostanzialmente. In questi casi però la risposta è purtroppo è negativa. Mi dispiace per Sergio, perché sostanzialmente la detrazione in questi casi ha carattere personale, quindi fin dall'origine il soggetto doveva sostenere le spese interamente e farsi intestare le fatture. Purtroppo la sopraggiunta incapienza della moglie comporta la perdita del beneficio per quella parte, perché l'agevolazione si trasferisce dopo che è nata solo con il trasferimento dell'immobile e quindi in questi casi la parte della moglie va perduta. Va persa, che credo sia anche la risposta che possiamo dare ad un ascoltatore che invece ci ha scritto, Alberto da Padova, e ci racconta di aver ristrutturato casa, ma per colpa della cassa integrazione ha versato meno IRPEF di quella in detrazione. Dunque, è in cassa integrazione nel 2009, ha versato meno IRPEF di quella in detrazione del 730 nel 2010. Come posso fare a non perdere quei soldi, Zandonà? Anche in questo caso credo che la risposta non possa essere molto incoraggiante. Qui parliamo non di un finanziamento, ma parliamo di una detrazione da imposta. Se l'imposta da pagare non c'è, sicuramente non si può recuperare, l'agevolazione non si può applicare. Ho un'altra domanda, e qua mi serve invece il supporto delle gare dell'avvocato Correale, perché non riguarda una situazione condominiale, ma un ascoltatore si è messo in una situazione un po' compromettente, perché dice e racconta, ammette, di aver fatto nel 2005 una modifica interna importante alla propria casa, senza però chiedere regolari permessi. Adesso dice: dovrei fare una sanatoria, sapete dirmi a cosa vado incontro? Io intanto non so se può sanare la sua situazione. Chi potrebbe andare a controllare a casa del nostro ascoltatore, avvocato Correale? Ma direi che valga la pena di esaminare la possibilità della sanatoria, che come tutti sanno in Italia è sempre possibile. Per dare una guida molto semplice, molto rudimentale, che poi andrà verificata caso per caso, il punto è non già di vedere quanto è importante quello che ha fatto, quanto di vedere se l'opera che è stata eseguita porta a violazioni del regolamento edilizio, un corpeggio del regolamento di igiene, nel quel caso parlare di sanatoria evidentemente non è possibile, oppure se si tratta semplicemente di trascuratezza italiana, per cui si è fatto quello che si sarebbe potuto fare regolarmente e semplicemente si è pensato di non spendere i quattrini per far presentare una DIA. Peraltro è un fatto accaduto nel 2005, esiste anche un tempo entro il quale, avvocato Correale, poi queste situazioni cadono in prescrizione? No. Noi abbiamo due tipi di sanatoria, una eccezionale che è data dalle situazioni dei ricorrenti condoni edilizi, per i quali sempre si dice che sarà l'ultimo e non verranno mai più presentati, e poi una sanatoria che riguarda invece la irregolarità amministrativa, cioè la violazione degli adempimenti burocratici che sono stati previsti, che è sempre possibile. Oltretutto bisogna pensare che anche nel caso di alcune violazioni che non siano gravissime, lo Stato preferisce, piuttosto che ottenere l'eliminazione dell'opera, irrogare una sanzione. Infatti, quindi bisognerebbe far valutare un po' la situazione da un professionista, da un esperto di queste, come dire, situazioni un po' problematiche. Peraltro, visto che l'ascoltatore ci diceva: io ho fatto questa modifica interna importante senza chiedere regolari permessi, poi rifaremo l'ABC dei permessi regolari da chiedere quando si tratta di avviare questi lavori, e poi strada facendo ai fini naturalmente dell'ottenimento del beneficio fiscale, che, lo ricordiamo, si spalma in 10 anni. Allora, Franco da Torino, buongiorno. Signora, buongiorno. Buongiorno. Informazione. Sì. Il 36% si può anche detrarre come seconda casa. Mm. Se uno ristruttura, per esempio, fa il tetto. Sì. Quindi, insomma, una manutenzione straordinaria importante. Eh sì, perché la neve ha fatto dei danni. Dai, quindi, insomma, deve rimetterci la mano nella sua bella seconda casa, Franco. Marco Zandonà. Sicuramente la risposta è positiva, nel senso che non è solo limitato il beneficio del 36% alla prima casa, quindi l'abitazione principale, ma tutte le case possedute o detenute. Mm-hmm. Zandonà, allora, già che ci siamo, facciamo un po' questo vademecum dei permessi regolari da chiedere, proprio l'ABC di base, ammettendo di dover fare, non lo so, di rifare il bagno. Partiamo da quello, di rifare tutte le tubature, quindi la manutenzione straordinaria, forse più diffusa nelle case dei nostri ascoltatori e dei contribuenti che appunto vogliono chiedere questa detrazione fiscale. Allora, dopo essersi fatti fare ovviamente da un'impresa, un buon preventivo che speriamo sia il più conveniente possibile, primo interlocutore formale da avvisare. Prima di tutto, se si rifà il bagno, quindi un intervento di manutenzione straordinaria, quindi rifacimento completo, occorre il provvedimento urbanistico, che è la DIA, la denuncia di inizio attività, che si chiede chiaramente presentando una domanda al comune con il progetto del professionista, il geometra o l'ingegnere, dichiarando i lavori che si intende fare, e dopo c'è il silenzio assenso, cioè dopo 30 giorni, se non c'è chiaramente una risposta negativa, si può avviare direttamente i lavori. Quindi la DIA poi, al comune. Esatto, tra l'altro, dobbiamo far noi o ce la fa anche il professionista? Se magari incarichiamo un architetto piuttosto che un geometra, il professionista fa direttamente la via. Quindi ci sono le spese ovviamente di progettazione, che tra l'altro sono spese detraibili ai fini del 36%, e sono spese tra l'altro che possono essere pagate anche non con bonifico bancario, quindi tutti i permessi, i bolli e le eventuali autorizzazioni. Infatti, perché poi c'è l'altro aspetto molto importante, che per ottenere il beneficio va tutto pagato con il bonifico, ci torniamo dopo. Poi, secondo interlocutore da avvisare dopo la DIA al comune. Poi, dopodiché, ovviamente devo presentare prima dell'inizio dei lavori, al massimo lo stesso giorno, la famosa raccomandata al centro operativo di Pescara. In questi casi è un modello che ovviamente si scarica anche da internet, si può utilizzare quello online, si compila ovviamente il documento, e ovviamente occorre allegare una certa documentazione a questo modello di comunicazione a Pescara. Mm-hmm. Qui c'è la DIA, il provvedimento urbanistico, poi le ricevute di pagamento dell'ICI, ovviamente se l'ICI era dovuta dal 97 ad oggi, poi chiaramente se si tratta di lavori condominiali anche la delibera assembleare. Infatti lì volevo arrivare poi con l'avvocato Correale, non mi bruci tutto. Sì. E la tabella. Allora, vado dall'avvocato Correale, perché questo è il percorso, diciamo, più semplice per chi deve fare i lavori in casa propria. Chiaramente è lo stesso percorso che deve fare un amministratore di condominio qualora dovesse dare il via a dei lavori appunto di manutenzione straordinaria di parti comuni di un condominio, ma il tutto deve essere già stato in via preventiva approvato da un'assemblea condominiale. Avvocato Correale. Sì, certo, vale tutto quello che è stato detto. Direi che un occhio più particolare va fatto per le grandi manutenzioni condominiali a due grandi esigenze: l'esigenza della regolarità dal punto di vista urbanistico, che è stata già detta, e l'esigenza dal punto di vista della sicurezza del lavoro. E infatti, quando i lavori sono di una certa complessità, bisogna anche mandare una comunicazione all'ARL, proprio perché si tratta di garantire anche questo aspetto. Io aggiungerei un ulteriore elemento, perché ormai da quando è entrato in vigore il testo unico dell'edilizia e poi il decreto 81 della sicurezza del lavoro, è necessario che nel contratto d'appalto siano inserite alcune clausole proprio volte a garantire la sicurezza del lavoratore. Uh-huh. Occorre che nel contratto l'appaltatore dichiari di aver tutto a posto, tutto in regola, pagato i contributi, assunto tutto regolarmente. Non stiamo ad indicare esattamente, comunque questo è un aspetto che va seguito. diritto nella maniera più assoluta. Benissimo. Poi lei diceva correttamente che va allegata anche la delibera condominiale, non solo quella che ha autorizzato, ma se ci sono delle varianti, delle opere aggiuntive, vanno allegate o comunque vanno comunicate mano a mano che se ne presenta l'occasione, la delibera condominiale con la ripartizione della spesa e quindi le eventuali integrazioni o le aggiunte. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, l'ultima parte della nostra trasmissione questa mattina di nuovo focalizzata sul beneficio fiscale del 36% per chi vuole ristrutturare case e quindi vuole eseguire lavori per la manutenzione, di manutenzione straordinaria del proprio appartamento, della propria abitazione per l'appunto. L'avvocato Correa ci aveva promesso un aneddoto interessante per aiutarci un po' a capire meglio il mondo soprattutto condominiale. Sì, certo. Da un avvocato si deve solo aspettare una risoluzione ministeriale, non immagini altro. Eravamo qua così un po' pendevamo dalle sue labbra, allora, ma è lo stesso. Sì, ma si tratta di questo, c'è tutto un aspetto di imperfezione delle comunicazioni, di mancata inserimento del codice fiscale giusto, di imperfezioni, ecco, e tra le tante imperfezioni ci può essere anche quella di avere iniziato i lavori senza una delibera assembleare. Immagini, c'è il tetto che perde, si interviene al 24 di dicembre. In situazione, diciamo, come esatto. Dire, di emergenza, ovvio. Esatto. Mm. Ora c'è una risoluzione ministeriale della quale do i dati perché può essere importante, è il 25 giugno 2008 264 che ha detto questo: se un condomino fa delle opere sulle parti comuni non è necessario che lui dia la delibera, che del resto non ci sarebbe perché l'ha fatta il singolo condomino, ugualmente ha diritto alle detrazioni di imposta. E questo è il caso particolare, il caso del portatore di handicap che ha diritto alla detrazione di imposta anche se l'ascensore l'ha installato da solo. Più in generale direi che vale la pena di ricordare che vanno rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge, bisogna fare tutto perfettamente in regola in maniera completa, ma che c'è un vasto margine di completamento quando si è sbagliato, quando non si è compilato esattamente per intero il modulo, quando qualcosa non si è fatto. Direi che gli unici tre adempimenti che non sono mai surrogabili e che comportano di per sé una decadenza sono il mancato invio del modulo, puramente semplicemente non l'ho mandato, ma era incompleto prima dell'inizio dell'attività, Il mancato rispetto delle normative della sicurezza del lavoro, quindi la comunicazione alla ASL e il pagamento mediante bonifico. Ma anche per il bonifico, se si è sbagliato nel compilarlo, dobbiamo immaginare che si ha diritto ugualmente ad integrare. Questo lo dico a beneficio degli amministratori di condominio che certamente fanno tutto per il meglio, però in uno studio può accadere che vi sia una qualche trascuratezza e bisogna sapere che non sempre c'è una mannaia, qualche volta è possibile integrare. In certi casi c'è anche un piccolo margine di elasticità. Allora, chi sentiamo? Vorrei sentire Maurizio da Bologna. Maurizio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io fuoriesco un po' dalla focalizzazione perché la mia domanda è relativa al beneficio per il 55%. Sì. Vorrei sapere, volendo installare i pannelli solari per la produzione di acqua calda e anche i pannelli fotovoltaici, sì, posso usufruire per entrambi dell'agevolazione o no? E per entrambi domanda, in che senso? Sia per il pannello fotovoltaico. Ah sì, perché sono due impianti diversi, sì. Esatto, che per i pannelli solari per la produzione di acqua calda. Uh-huh. E l'altra domanda è, l'agevolazione è distribuita sui 10 anni, cioè sull'arco temporale come per il 36% o finendosi con quest'anno, come funziona? Allora Maurizio, andiamo da Marco Zandonà per questa domanda. Beh, questo beneficio mi pare che si possa spalmare su 5 anni, però ha tempo fino alla fine dell'anno per fare questi lavori, se non ricordo male. Zandonà. Sì, i lavori devono essere fatti entro il termine di scadenza dell'agevolazione, ovviamente, anche se poi l'agevolazione non è più in vigore, ma se io faccio i lavori nel 2010 poi continuerò a detrarmi in sede di dichiarazione dei redditi un quinto delle spese sostenute e nelle dichiarazioni successive fino al 2016, sostanzialmente questo, quindi anche se viene meno io continuo, avendo già sostenuto le spese, a detrarmi le spese nei successivi anni, la mia quota annuale. Questo per quanto concerne il lasso temporale. temporale. Per quanto concerne la domanda, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, non è agevolato né con il 36% né con l'agevolazione del 55%, perché l'impianto fotovoltaico è diretto alla produzione di energia ed esiste un'altra agevolazione, che è quella del conto energia, che ovviamente quindi è incompatibile sia con il 36% che con il 55%. Benissimo. Per i pannelli solari invece l'agevolazione si applica a condizione che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2010. Chiarissimo, Zandonà. Senta un po', c'è un ascoltatore, Roberto da Milano, che ci scrive: l'impresa alla quale avrà commissionato i lavori di manutenzione straordinaria non vuole indicare il costo della manodopera, ma solo il valore fatturato. A me è ammesso? No, cioè il costo della manodopera è obbligatorio in tutte le fatture, sia per il 36 che per il 55%. Quindi se l'obiettivo è ottenere il beneficio fiscale, non va bene l'indicazione in fattura che vuole fare l'impresa. La fattura è indicare qual è il costo della manodopera, che è il costo ovviamente per il datore di lavoro, perché siccome questa è una norma che serve anche a combattere il lavoro nero, in questi casi io devo indicare quant'è lo stipendio, le ore pagate sostanzialmente per il lavoratore che viene utilizzato nel singolo intervento. Ovviamente se i lavori sono fatti direttamente dall'artigiano, dall'imprenditore, in questi casi non c'è un costo della manodopera, perché siamo di fronte a un reddito di imprese. In questi casi non va indicato il costo della manodopera, ma nella fattura deve essere indicato che i lavori sono eseguiti direttamente dall'imprenditore. Torno rapidamente al condominio con Graziella da Padova. Rapidissima, Graziella, così do tempo anche ad un altro ascoltatore. Buonasera. Prima di salutarci. Buongiorno. Buongiorno, è lo stesso. Ci dica. Il mio problema è questo: io sto facendo la ristrutturazione di un appartamento di mia figlia all'ultimo piano. Sì. Vorrei impiantare il sistema fotovoltaico per l'energia. Sì. Conosco tutte le agevolazioni. Chiedendo sia il permesso ai condomini che all'amministratore, in questo caso di crisi energetica possono negarmi il permesso? Ah, Graziella, andiamo all'avvocato Correale. Che tipo di maggioranza ha bisogno l'approvazione di un lavoro come questo, avvocato? Più che di una maggioranza occorre verificare l'opera che si fa e quanto impegni la parte comune, perché proprio perché comune è di tutti e tutti devono essere messi in grado di poterla utilizzare. Quindi rapidamente occorre vedere se il regolamento di condominio prevede un qualche divieto. È evidente che se c'è un divieto di alterare comunque l'aspetto esteriore dell'edificio, non può essere fatto. Poi nel caso in cui non vi siano divieti, può essere installato il pannello e l'impianto, purché non si vada ad impegnare una parte eccessiva della porzione comune. E di tutti occorre lasciare che anche gli altri possano eseguire. Poi chiaramente occorre che tutte le opere siano fatte nel rispetto delle normative di sicurezza, sia del lavoro che della statica dell'edificio, ecco, perché non bisogna dimenticare che si applicano degli impianti su delle tegole, su delle parti comuni che devono servire per coibentare e per isolare dalla pioggia, quindi occorre dare garanzia a tutti i condomini che questi valori siano rispettati. Maristella da Bergamo, l'ultima ascoltatrice a cui permettiamo oggi di farci la sua domanda, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo sapere se queste agevolazioni possono essere date anche a chi acquista un appartamento in una palazzina ristrutturata, era una palazzina inizio secolo, l'hanno ristrutturata, io l'avevo prenotato a settembre del 2007, poi entro aprile del 2008 avevano avuto tutti i permessi dal comune di Treviglia per ristrutturare e a dicembre 2008 feci l'atto, il passaggio di proprietà. Sì. Quando andai lo scorso anno a fare 7:40, mi dissero, chiamai quelli che costruirono questo appartamento, questa ristrutturazione, mi dissero, ma no, non so, poi dopo io, va bene, lasciai perdere. Rapidissima, Maristella, che devo chiudere, quindi... Voglio solo sapere, io posso chiedere il beneficio fiscale anche se ho acquistato l'appartamento che l'hanno ristrutturato, che è già ristrutturato. Zandonà. Sì, la risposta è sì a queste condizioni: che il fabbricato sia stato integralmente ristrutturato, non una singola unità immobiliare, con un intervento incisivo di restauro e di ristrutturazione, e che la cessione sia effettuata direttamente dall'impresa che ha eseguito i lavori. In questi casi però la detrazione si applica su un limite del 25% del corrispettivo contrattuale, quindi forfettario, non in base alle spese sostenute, nei limiti sempre di 48.000 euro. Benissimo. Sì. Qua purtroppo Pietro mi taglia con la sigla. Zandonà e Correale, grazie per essere stati con noi, come sempre con la vostra proverbiale chiarezza. Salvadanaio su questo tema vi promette che ci tornerà di nuovo piuttosto rapidamente, perché le telefonate sono state tantissime. Scriveteci a salvadanaio@radio24.it. Se volete risentire il programma potete collegarvi al sito di Radio 24. Noi torniamo domani. Buona giornata.